quando ti vedranno solo nel tuo appartamento, privo di conforto almeno in apparenza. Cosa penseranno quando li presenterai i tuoi amici ed il giorno di Natale lo passerai con loro? Forse la giovinezza è solo questo, perenne amare i sensi e non pentirsi mai. Cosa penseranno loro, tanto timorati del Signore? Il castigo del buon Dio. Tutto si trasforma, tutto, tutto cambia. Resto sempre.